si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:36 minuti, ben ritrovati, inizia Si può fare, il buongiorno nel weekend di Radio 24, 349-238-6666 per i vostri sms anche su WhatsApp, per dialogare con noi in tempo reale. C'è anche la pagina Facebook, Si può fare, trattino Radio 24, se preferite Twitter, chiocciola Si può fare 24, il mio account personale, chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo come sempre con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al GR delle 8. Vai, iniziamo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, cominciamo subito con qualche titolo, giornali in ordine sparso su ancora la vicenda delle rivelazioni, il possibile scoop di Ferruccio De Bortoli, sulla questione delle banche. Adesso c'è anche l'ammissione di Del Rio, che si è interessato anche lui per Banca Etruria. C'è l'attacco hacker ai computer di mezza Europa e di mezzo mondo. C'è naturalmente anche la condanna a Schettino a 16 anni, condanna a questo punto definitiva per l'ex comandante della Costa Crociere, che fece insomma, nel 2012 portò la Costa a naufragare, ad accasciarsi a fianco all'isola del Giglio con tanto di vittime. Possiamo cominciare proprio da qua, perché i giornali si danno da fare a livello di titoli su questa notizia. Affondato, scrive per esempio Il Giorno, Concordia, sentenza definitiva, 16 anni a Francesco Schettino per il naufragio di 5 anni fa. L'ex comandante è già a Rebibbia. I parenti delle 32 vittime che dicono finalmente giustizia è fatta. Schettino 16 anni di condanna, la sentenza, scrive il Corriere. Poi c'è chi, come Il Giornale, non si lascia sfuggire l'occasione per fare un titolo così: Schettino in prigione, entri in cella, C puntato, ricorderete, torni a bordo, K puntato, e qui il titolo è entri in cella, cambia il concetto, ma resta la forza dell'imprecazione. L'ex comandante condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, nel quale morirono 32 persone. Schettino in prigione, scrive Libero. Governo a piede libero, caprone espiatorio. Qua il punto di vista è diverso, si fa un piove governo ladro, un parallelismo tra Schettino e il paese. Il comandante condannato a 16 anni per omicidio e per aver affondato la nave, giusto così, ma nessuno sfiora i politici che hanno mandato a piccola Italia. Ecco i capi d'accusa. E va bene, questo è anche un punto di vista. Per quanto riguarda poi i contenuti della notizia, non c'è molto da aggiungere. Un processo che è andato avanti con tutti i suoi gradi di giudizio, e confermata la condanna, la Cassazione non rivede il verdetto, scrive il Corriere della Sera. 16 anni e un mese per la tragedia del Giglio, morirono 32 persone. La reazione dei familiari se l'è meritata per le sue bugie e per il suo poco rispetto verso chi ha perso la vita. Per quanto riguarda l'ex comandante, 56enne, originario di Castellammare di Stabia, l'attesa in macchina già davanti al carcere di Rebibbia, e poi la frase: mi vado a costituire, io credo nella giustizia. Altri titoli sulle altre notizie di ieri, quindi sui giornali di oggi. Il Corriere della Sera, centropagina, dedica ampio spazio al grande attacco ai computer. Gli hacker contro ospedali, aziende in 74 paesi, il virus rubato agli 007 americani, chiesto un riscatto, a Londra dirottate le ambulanze, in Italia colpita l'università Bicocca. Attacco hacker, scrive Repubblica, colpisce oltre 70 nazioni, chiesto un riscatto. Inizialmente la notizia è partita un po' in sordina, l'ha data la BBC in tardo pomeriggio di ieri, parlando di un attacco hacker che aveva colpito soprattutto la sanità inglese, ma poi la notizia si è un po' allargata, ha preso piede e in effetti adesso scopriamo, per esempio, che a essere colpiti sono stati paesi di mezzo mondo, perché il Corriere fa questa fotografia: 45.000 attacchi identificati, 74 le nazioni colpite dal virus informatico. Scrive il Corriere: l'attacco mondiale dei pirati informatici, computer di ospedali, università, compagnie telefoniche sparsi in almeno 74 paesi sono stati colpiti da un virus che blocca l'accesso ai file. Per poterlo aggirare, gli hacker responsabili del sabotaggio hanno chiesto in alcuni casi un riscatto, $300 per ogni computer infettato, da pagare in bitcoin, la valuta digitale. Se non si versa la somma entro 3 giorni, il prezzo raddoppia. Dopo una settimana il danno non sarà più reparabile. Questo è un messaggio che si sono visti apparire su alcuni computer, i proprietari di questi computer. L'allarme è partito ieri dalla Gran Bretagna, dove la cosa è stata più grave che in altri paesi. L'intero sistema sanitario nazionale, scrive il Corriere, è stato messo in ginocchio, forse con un po' di enfasi, un po' di enfasi eccessiva. Comunque nel mirino sarebbero feriti 25 ospedali, studi medici e dentisti del sud dell'Inghilterra, dell'Inghilterra fino al nord della Scozia. Alcuni ospedali hanno dovuto annullare le operazioni non di emergenza, mentre i pazienti venivano rimandati a casa anche in presenza di fratture o dolori acuti. Non era infatti possibile eseguire radiografie, ecografie, esami del sangue, così come risultava difficile in certi casi sterilizzare gli strumenti. Qual è il fine, si chiede il Corriere, di questi attacchi? Denaro, sempre denaro, ma nel caso dell'attacco in corso ci sono degli aspetti preoccupanti da sottolineare rispetto a quello che accadde in America alcuni anni fa, nel 2011 in particolare. Si è trattato di un attacco coordinato su tanti paesi. Come mai hanno chiesto il riscatto in bitcoin, per esempio? Altra domanda, no, che ci si fa, perché la moneta virtuale è molto difficile da tracciare, giustamente, e quindi questo è il motivo evidente per cui ciò è accaduto. Il parallelismo e il paragone è con quello che accadde negli Stati Uniti nel 2010, quando cercarono di sabotare i siti nucleari iraniani con una serie di virus e si disse che qualcosa gli era sfuggito di mano. Ora la storia in qualche modo sembra ripetersi, visto che la massiccia offensiva degli hacker sarebbe stata condotta sfruttando degli strumenti di hackeraggio dell'NCIA, l'agenzia di spionaggio elettronico statunitense, un software rubato dai pirati noto come Shadow Broker, che ora è riapparso nella clamorosa sfida che ha coinvolto decine di paesi in Europa e nel mondo. E quindi la possibilità che in qualche modo la fonte sia le autorità americane, l'Agenzia per la Sicurezza Americana, che ovviamente ha a disposizione dei software per hackerare qualunque cosa, lo fa nei suoi interessi normalmente, diciamo nel tempo libero, però questi software possono fare il giro del mondo, finire nelle mani di chissà chi, di malintenzionati. Sono potentissimi e avete visto i risultati di ieri, anche se poi sarebbe interessante approfondire e capire l'entità di questo hackeraggio, come è andata a finire veramente in alcuni casi questa storia del riscatto, perché per esempio ieri in Italia fino a una certa ora non si aveva notizia di sabotaggio, di hackeraggi, diciamo, di una certa entità. E allora 7:47 minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua, stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi con una velocissima rassegna stampa che ci accompagna fino al GR delle 8 e ci siamo lasciati alle spalle il tema hacker con l'attacco, grande attacco ai computer, scrive il Corriere in prima pagina, e anche per la stampa la grande rapina dei pirati del web. E si fa riferimento ai riscatti, appunto, che sono stati chiesti per sbloccare i computer hackerati. A proposito di web, a proposito di digitale, c'è la notizia che arriva dal G7, per ora in realtà è una mezza notizia, i ministri delle finanze del G7 riuniti in Italia, a Bari, una delle riunioni preparatorie per il grande G7, quello politico, che si terrà a Taormina tra pochissimo. Scrive il Sole 24 Ore col titolo principale: il G7 accende i motori della web tax globale. Oggi, atteso l'annuncio nella dichiarazione finale, l'OCSE elaborerà le proposte, perché c'è una richiesta da parte dei ministri finanziari, appunto dei 7 paesi più industrializzati al mondo, all'OCSE, di elaborare proposte per una web tax, cioè una tassa sui giganti del web, una tassa sull'economia digitale, insomma, per trovare un modo per portare a reddito, dal punto di vista degli stati, a tassazione, un fenomeno che è transnazionale per definizione, globalizzante per definizione, come è quello del web, con le grandi compagnie che fanno profitti avendo delle attività virtuali sparse in tutto il mondo, server piazzati chissà dove, con cavilli legali riescono a pagare le tasse basse in paesi dove la tassazione è molto agevolata, e però poi ci sono attività economiche reali come raccolta pubblicitaria o la vendita di servizi come fa Amazon e come fanno un po' tutti ormai, che è quella sì, economia reale, realissima, ma che spesso sfugge alla tassazione. Quindi l'idea è questa: la web tax globale, scrive il Sole 24 Ore, muove i primi passi, l'annuncio è atteso oggi nella dichiarazione finale del G7, anche l'opposizione degli Stati Uniti sembrerebbe rientrata, e si parla di un successo italiano, perché sarebbe l'Italia, oltre diciamo la sede che ha ospitato questo G7 Bari, ma anche il paese che in qualche modo avrebbe un po' spinto, e lo sappiamo, nel nostro paese c'è stato un dibattito su questo, spinto in questa direzione. Già che siamo sul Sole, vi leggo anche l'editoriale, il commento di prima pagina: le scelte di Macron, il neoeletto presidente della Francia, francese. La Francia con l'Italia ora prema su Berlino, scrive Pierluigi Ciocca. Il nuovo presidente francese, con governo e Parlamento pur essi nuovi, è chiamato ad andare oltre la retorica combinata di nazionalismo ed europeismo che solo in Francia fa vincere le elezioni. Si citano tutti i punti deboli dell'economia francese, che non mancano. La conclusione, scrive Ciocca, è che la Francia di Macron, appiattendosi alla Germania, sarà austera per risanare le pubbliche finanze e i conti con l'estero, sopporterà i costi ancor più pesanti in termini di reddito e di occupazione. Se non lo sarà, entrerà in aperta collisione con i parametri europei di bilancio e debito. Non c'è alternativa. La Francia deve, con l'Italia e con altre nazioni dell'Europa, scrive Coccia, premere sulla Germania affinché essa abbandoni il suo neomercantilismo economico e consenta a se stessa, e questo è il punto importante, agli altri paesi di effettuare investimenti pubblici in infrastrutture, i soli capaci di sostenere insieme produttività e competitività e domanda globale. Quindi una presa d'atto che a questo punto il presidente francese Macron, secondo questa analisi, non ha molta alternativa se non unirsi all'Italia in una pressione reale, forte, nei confronti della Germania a cambiare rotta, o se preferite a cambiare verso delle politiche economiche fin qua condotte di austerità, soprattutto in Europa. Poi bisogna vedere questa flessibilità come la investi, perché in Italia negli ultimi anni la flessibilità è stata investita soprattutto in bonus fiscali a famiglie, a volte imprese, a volte dati un po' a casaccio, il bonus di 80 euro ricorderete, qua però si parla di investimenti, quindi un altro modo di andare in debito, andare in deficit, ma è quello di che adesso appunto Sole 24 Ore evidenzia, perché gli investimenti, c'è un motivo, no? Sono calati gli investimenti pubblici in questi anni e quindi non sostengono più la domanda economica. Allora, la vicenda vaccini, siamo quasi in chiusura, c'è notizia, dopo tanto dibattito ieri il Consiglio dei Ministri ha annunciato una misura la settimana prossima: vaccini a scuola. Gentiloni, scrive Repubblica, sblocca il decreto, fuori dalle aule chi non li ha fatti. L'articolo potrebbe essere questo, un breve articolo di legge, è posto in capo ai responsabili dei servizi educativi pubblici e privati e dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, l'obbligo di rifiutare l'iscrizione in mancanza di certificazione o di idonea documentazione comprovante l'intervenuta somministrazione dei vaccini. È una simulazione, ma è il testo base di quello che potrebbe diventare poi una legge. Gentiloni ha annunciato un approfondimento collegiale del governo, qualche crepa all'interno del governo su questa obbligatorietà, che deriva dalle perplessità del ministro Fedeli, che aveva parlato di un possibile conflitto con il diritto alla istruzione. Ma per il costituzionalista Alessandro Pace, per esempio, sempre su Repubblica, il diritto alla salute resta più importante di quello all'istruzione. La Repubblica, all'articolo 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce le cure agli indigenti, eccetera, eccetera. Questo significa che se c'è legge i vaccini diventano obbligatori, la salute è interesse della collettività e quindi potrebbe passare in primo piano rispetto al tema del diritto all'istruzione. Che altro? Domani ci sono le primarie della Lega e Salvini, in un'intervista al Corriere, dice, conferma che farà le primarie con Fava, se non otterrà un'ampia maggioranza non andrà avanti. Lei ha detto che se non prende almeno l'80% lascia. Conferma? Io non ho mai dato percentuali, ho ribadito il principio, visto che negli ultimi anni mi sono impegnato come un matto e così ho portato a casa risultati per la Lega mai visti. Mi piacerebbe una grande condivisione, vado avanti soltanto se il movimento mi segue compatto. Nel frattempo ricorda le divergenze che ci sono nella Lega, Salvini che si sta renzizzando, tutte le opposizioni interne alla Lega, mi sono preso il Salvini è un uomo morto, di Bossi, è peggio di Erdogan, di Gianluca Pini, non è un vero leghista, di Fava, non ho replicato, dice Salvini, spero però che da lunedì ci si metta al lavoro, ne abbiamo di fronte moltissimo da fare. A proposito, da un leader all'altro, Berlusconi, secondo il Corriere, non sarà candidabile alle elezioni, alle prossime, sia che dovessero avvenire in quest'autunno, sia nel 2018, perché la Corte Europea di Strasburgo terrà un'udienza in autunno, ma la sentenza ha bisogno di almeno 6 mesi, per cui tutto slitta, scrive Repubblica, e quindi Berlusconi non sarà candidabile in nessun caso, anche se Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, sta studiando qualche possibile contromossa. Chiudo con una segnalazione di Avvenire che riguarda la legge sul terzo settore, i decreti attuativi. Una preoccupazione per questo settore, il volontariato, che riguarda milioni di persone, che porta avanti mezza Italia, dalle cure a tante altre cose. Per il terzo settore, scrive Avvenire, rischio falsa partenza, riforma, approvati i decreti, ma ci sono delle criticità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 8:19 minuti. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi anche questa mattina. Il buongiorno nel weekend di Radio 24, oggi e domani. Carlo, Milano, Monterosa. C'è il sole, anche strano, se in questo momento previsto, sta passando, credo, una nuvola, perché ce n'è un po' meno, ma ero felicissimo quando sono venuto qui stamattina in radio, perché c'era proprio un bel sole. Invece è stata una settimana dove onestamente io andavo in giro con il piumino e mi chiedevo, ma il fatto che uno a maggio a Milano abbia addosso il piumino non è sufficiente per decretare lo stato di calamità nazionale, nel senso che c'è un problema. Invece forse è arrivata finalmente, non so, no, la non tarda diciamo, primavera, non lo so. Ma la cosa straordinaria è che mentre tu vai in giro con il piumino, tu e molti altri, a fianco c'è gente in maglietta a maniche corte. È vero, sono tedeschi. No, anche dei Milani. Come si faccia nello stesso giorno di maggio andare in giro a maniche corte o col piumino, me lo dovete spiegare. È vero, non si capisce più. 800 24 00 24, cari ascoltatori, le vostre buone notizie della settimana, vi aspettiamo come sempre, naturalmente, anche per giocare con noi. Partiamo da un anniversario clamoroso, storico, importante, epocale, anche se non è cifra tonda, sarà l'anno prossimo, il 68. Sì, signori. 13 maggio, oggi che giorno è? Oggi è il 13 maggio, oggi, quindi non potevamo non farlo. È per quello. Allora, le prime manifestazioni a Parigi, nella capitale francese, capitale anche di quelle rivoluzioni. Vi chiediamo oggi: per cosa fareste una rivoluzione? C'è bisogno di rivoluzione, perché c'è poco in giro, non è che ci siano dei movimenti, della gente che si arrabbia nonostante si parli di crisi, di cose che non vanno. Beh, insomma, qualcuno che si arrabbia hai la sensazione che siano non tanto organizzati e che non siano tanto insieme, nel senso che ognuno fa un po' per sé. Però insomma, la domanda è bella, mi incuriosisce molto, perché cosa fareste la rivoluzione? Per il lavoro, per la pace nel mondo, oppure anche le vostre piccole rivoluzioni della vita quotidiana che invece siete riusciti a fare nella vostra vita, che siete riusciti a portare a compimento. 800 24 00 24, una rivoluzione che ci attende è quella che riguarda i caregiver, e speriamo che ci attenda tra poco. Allora, intanto ringraziamo Max Pezzali per questa Io ci sarò, che insomma cade a pennello per noi. Chiedo agli ascoltatori, quasi qua in studio. Sì, chiedo agli ascoltatori all'800 24 00 24, ma anche al 349 238 6666, se avete una definizione in italiano di questa espressione caregiver. Di cosa stiamo parlando? Traducendo letteralmente di datori di cure, donatori di cure. È una espressione che serve per definire le persone che hanno una persona a loro volta da aiutare, un familiare a carico, sì. Un malato, un disabile, una persona anziana a cui dare delle cure, a volte anche solo attenzione, o anche un figlio, ovviamente non c'è un figlio, esatto, assistenza. E sono persone che hanno dei bisogni particolari, non se ne sta occupando quasi nessuno. A metà settimana c'è stata una manifestazione di questi caregiver. Una persona che se ne sta occupando è Laura Bignami, ex senatrice del Movimento 5 Stelle, parlamentare, ora di Movimento Per. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che è prima firmataria di un disegno di legge sui caregiver. Anche a lei chiedo di riflettere se c'è un'espressione in italiano per definire questa categoria di persone. Sì, familiare assistente. Ecco, familiare assistente. Ci spiega di che universo stiamo parlando, prima di andare poi a parlare della legge che lei ha presentato, che cosa prevede, cosa chiedono queste persone? Stiamo parlando non direttamente di disabili o anziani assistiti, ma dei loro parenti. È un concetto fondamentale, che loro non sono disabili. Certo. Sono delle persone che si dedicano completamente alla cura di una persona, che può essere un familiare, un vicino, un amico. Si prendono cura 24 ore al giorno di loro, di solito sono soli, sono silenziosi, è un lavoro, diciamo, io li chiamo sempre innocenti agli arresti domiciliari. Perché diciamo che dare queste cure a queste persone è un impegno. Chi non ha un caso del genere all'interno della propria famiglia può, magari fatica, non può neanche immaginare, perché è una cosa che ti lega e che ti pone delle necessità particolari. Sì, prego. Al di là delle necessità particolari, io vorrei semplicemente dare loro quelli che sono i loro diritti. Pensi che non possono neanche andare all'ospedale queste persone. Cioè non è previsto, cioè, se hanno un infarto lo Stato non accudisce, non ha una modalità di accudimento delle persone di cui loro si prendono cura. Cioè se io che devo occuparmi di mio figlio, di mia mamma o di mia nonna, e sono l'unica a occuparmene, quel giorno lì mi succede qualcosa a me, devo scegliere tra me o l'altra persona. Questo è una cosa crudele. Casi sì, appena anche successi di persone che hanno parziali infarti, diciamoli così, e rifiutano e firmano il ricovero perché hanno nella stanza a fianco il figlio sulla carrozzina che li aspetta. E questo è un mondo silenzioso, tra l'altro, perché queste mamme, purtroppo, adesso noi abbiamo appena fatto una manifestazione al Pantheon. Ecco, non sono potuti venire neanche a manifestare. Neanche alla manifestazione. Voglio dirlo proprio per questo, perché è una delle prime volte in cui questo fenomeno è affiorato, è venuto fuori con questa manifestazione. Chi c'era intanto? Perché lei dice giustamente alcuni non sono neanche potuti venire. Sì, c'erano dei rappresentanti di varie regioni, adesso io elencarle tutte mi sento... No, però in realtà il problema, aspetti, perché sono su un treno, adesso sto scendendo, erano presenti comunque dei rappresentanti di tutte le regioni, e moralmente ce n'erano tantissimi. E lei, fisicamente ce n'erano molti meno. Lei, Bignami, ha presentato, prima firmataria, una proposta di legge proprio per occuparsi, per pensare di occuparsi per una volta di questo, di queste persone. Cioè, ci tengo solamente a sottolineare, sì, che stiamo parlando di 3 milioni di persone, perché a volte uno, cioè, pensa che sia un problema minoritario, ma non è così. Insomma, stiamo parlando di 3 milioni un di sacco, persone, veramente un sacco di gente, appunto, di cui nessuno. Facciamo degli esempi, perché noi settimana scorsa avevamo dato una notizia di una scuola, un istituto professionale di Cesena, che per la prima volta in Italia, almeno per quel che ne sapevamo noi, in una scuola si riconoscevano le necessità degli studenti caregiver, cioè che hanno un familiare a carico in qualche modo, e quindi ritardi consentiti, interrogazioni programmate, la possibilità di sforare nel numero di assenze previste durante l'anno, sono cose che, a cui nessuno aveva mai pensato. Stiamo parlando di queste cose qua. Cosa prevede la sua proposta di legge, onorevole? Allora, la mia proposta di legge è più semplice di quella presentata, è più complessa, diciamo anche più dettagliata dal mio dal senatore del PD Angioni, perché diciamo che c'è anche questa proposta. La mia è semplice, però diciamo così, ha delle richieste che nel caso dovessero essere accettate renderanno sicuramente l'esistenza di queste persone più leggera. Ci fa qualche esempio per capire? È possibile. Sì. Nel senso che sicuramente un riconoscimento contributivo in maniera figurata di questo lavoro, perché io le faccio un esempio semplice di quello che porto sempre avanti. Di solito sono le donne che fanno gli accudimenti così faticosi sui figli. Una donna che ha un figlio cerebroleso solo per 20 anni, questa donna si aliena in una cura per 20 anni e alla fine si trova a 45 anni senza che risulta che non ha mai lavorato, quindi certo, a quel punto può solo darsi al lavoro nero, perché non ha nessuna possibilità di raggiungere in nessun modo la pensione, e quindi anche lo Stato in questo senso perde una risorsa, mentre riconoscendo questi anni di lavoro successivamente, poi, perché non sempre c'è, cioè, chi fa il caregiver tutta la vita, chi lo fa 20 anni, chi lo fa 15. E quindi riconoscendo questo lavoro sicuramente si può trarre giovamento. Senta, quanti... Poi c'è il discorso della pensione anticipata, sì, perché c'è Elisa Teburn, che è una dottoressa premio Nobel, ha fatto uno studio e ha dimostrato che i caregiver di solito vivono 17 anni meno. Sì, infatti, è incredibile questo. Elizabeth Blackburn, che è il Nobel per la medicina del 2009, che ha fatto esattamente una ricerca, e ne è risultato che coloro che si prendono cura di un disabile hanno una vita media più breve di 17 anni, che mi sembra una notizia incredibile. Cioè, io chiedevo solo 5 anni di anticipo pensionistico. Ma qua ce ne vorrebbero di più, direi 17, se lo dice il premio Nobel, sì, insomma. Sì, lo so, però già chiederne 5 come... Certo. No, e tra l'altro lei stava faceva un esempio molto preciso, nel senso di qualcuno che se ne occupa per magari appunto per 20 anni, cioè anche l'uscita da questo problema in realtà è problematica, nel senso che uno dopo 20 anni che si è occupata di un figlio, come spiegava lei, cerebroleso, è completamente alienata anche dal mondo del lavoro. Non ha neanche un bollino, un contributo pagato, cioè è come se non avesse fatto niente. In come realtà se non invece avesse vissuto, in esatto, qualche ha modo. Fatto tantissimo. In realtà ha fatto tantissimo anche per la società, perché no, ha fatto tanto anche per lo Stato. Certo, sì, beh, ho detto società per dire Stato. Quantificare poi la misura di questo lavoro non è difficile, basta solo vedere quanto costa il costo di un ragazzo che necessita accudimento. No, beh, è vero che non è difficile, però forse la domanda che ci si fa, come sempre, è dove si trovano i soldi, nel senso che secondo me è veramente nobile il discorso che fa lei, è molto giusto e molto corretto. Ci sono le risorse per occuparsi di questi 3 milioni di persone? Adesso però il discorso è molto politico, perché lo Stato nostro i soldi li trova per fare quello che vuole. È una questione di priorità, bisogna decidere dove investirli. Senta, quindi, io le voglio chiedere, però, onorevole, le scelte giuste, sì, le scelte sbagliate, onorevole Bignami, le voglio chiedere, sì, le voglio priorità. Chiedere, le voglio chiedere, la proposta di legge che lei ha fatto a che punto è, in che stato di avanzamento o di non avanzamento è, e quale accoglienza ha accolto negli altri partiti, perché al di là poi del singolo aspetto della proposta di legge, c'è la sua, c'è anche quella di un altro parlamentare del PD, però mi sembra che su un tema del genere dovrebbe esserci, come è stato altre volte, una, non dico unanimità, ma insomma un'ampia condivisione, la possibilità di fare un passo avanti, seppur piccolo, un inizio di interessamento da parte della politica, allora, a queste persone. Così avanti non siamo mai arrivati, questo è già un punto d'arrivo. L'idea che a spingere sia poi un monoide del Senato come me, che è rappresentato da un solo senatore. Spieghiamo perché monoide del Senato, lei dice con un po' di autoironia, perché lei è stata eletta nel Movimento 5 Stelle, poi è stata una... defenestrata per eccesso di desiderio di democrazia. È stata comunque espulsa dal Movimento 5 Stelle, adesso sta nel gruppo misto con un gruppo che è il suo, in particolare il Movimento, Movimento. Tra l'altro lei è, ha detto che, aveva detto dopo la legge sulle unioni civili, dimettiamoci tutti, perché c'era una parte della legge che secondo lei era carente. Che ricordiamo tutti, che è la stepchild della questione della fedeltà. Però non è riuscita a dimettersi. Che uno che legifera. Sì. Si può permettere di imporre il fatto che una coppia possa non essere fedele dopo che sono mesi che fanno... Sì, senta, le faccio risentire l'audio del suo intervento, che lei ricorderà naturalmente, però gli ascoltatori magari non lo ricordano, perché poi è diventato virale, è stato visto decine, centinaia di migliaia di volte. Sentiamo quel passaggio, era il 2015, credo. Sentiamo. Provo un'amara delusione e pena nei vostri confronti. In nessuna occasione vi siete concessi il lusso di rischiare un confronto davvero democratico, rischiare di lasciare i senatori alle loro coscienze. Loro sono una minoranza che ama, che vive in famiglia e ha già i suoi figli. Una minoranza che senza stepchild e senza obbligo di fedeltà voi avete stuprato. Togliere la fedeltà e togliere il cuore dell'amore vero. Molti di voi sono omofobi, molti trogloditi, ignoranti. Ecco, questo, perché confondete questo... trogloditi, omofobi, poi ha fatto il giro del web, è stato visto e rivisto centinaia di migliaia di volte. La comunità LGBT ricorda molto bene tutto era questo. Era il 2016, ho sbagliato io l'anno naturalmente. Lei dopo disse dimettiamoci tutti, lei voleva dimettersi ma non è riuscita però non è riuscita, diciamo, Vacciano insegna, Vacciano insegna, 5 volte. Ma com'è possibile questa cosa qua? Allora, ci sono tante motivazioni. La prima è che, vabbè, il Senato in toto non vuole perdere un senatore che lavora per un 5 Stelle nuovo. Certo. Cioè, quindi le hanno votato contro le sue dimissioni? C'è stato un voto? Due volte, in realtà. Io mi sono dimessa subito quando mi hanno espulso. Io non ho firmato niente, io non ho cambiato casacca, mi metto sempre nell'insieme, volevo precisare adesso che in realtà Grillo ha fatto un post fuori voi e siamo usciti. Ecco. Sì, no, ma insomma, al di là della vicenda sull'espulsione era però è interessante che questa cosa che un parlamentare che si vuole dimettere non riesce a dimettersi perché gli votano contro le dimissioni, e questa è una curiosità. L'importante però, io vorrei chiudere con un appello che se vuol farlo ai nostri microfoni, agli altri parlamentari, a chiunque, che si sensibilizzi su questo tema dei caregiver. Ricordo c'è stata una manifestazione a metà settimana e lei è depositaria, prima firmataria di una proposta di legge che è in Parlamento, e speriamo che faccia qualche altro passo avanti fino ad arrivare all'approvazione, se non questa, un'altra legge simile. Diciamo che come senatrice per caso io vorrei dare un senso a questi miei 5 anni, e se riuscissimo veramente a portarla a casa sarei felice. In più i parlamentari sono tutti convinti, è il governo che deve poi adesso in questo momento fare un passo anche nella direzione. Io Paolo Gentiloni, che ci ascolta tutti i sabati e le domeniche mattina, lo secondi, so perché me l'ha detto lui, mi raccomando, sì, 20 secondi. Abbiamo parlato dei diritti civili, la copertura sul discorso della pensione, sulla reversibilità della pensione da parte del compagno, questa cosa qui non aveva le coperture, perché non si sapeva, non era quantificabile. Però siccome non era una cosa buona e giusta, è stata fatta. È stata fatta, e così si può fare anche sui crediti. Però sono cifre minime quelle di cui si parla, di coperture per le pensioni, di reversibilità per le unioni civili. Grazie onorevole Bignami, noi chiudiamo qua, salutiamo qua, 800 24 0024, ascoltatori che sicuramente avete delle storie da raccontarci su questo, microfoni aperti stamattina sul tema dei datori di cure, dei familiari assistenti, o anche, aiutateci a trovare una definizione in italiano, pensavo, per o anche caregiver. Dei caregiver. 349-238-6666 se volete, e poi anche per raccontarci nel giorno dell'anniversario, non cifra tonda ma 49 anni del 68, qual è la rivoluzione che oggi si necessita, di quale rivoluzione fareste, o anche la rivoluzione che siete riusciti a fare nella le vostre piccole rivoluzioni personali. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, la mia rivoluzione è contro gli automobilisti incivili, scrive Tonio al 349-238-6666. E Renzo invece si potrebbe manifestare per la democrazia in Venezuela, come si faceva tutti i giorni quando le stesse cose succedevano in Cile. Alto e basso, nei messaggi qua su. Vi chiediamo oggi per cosa fareste oggi una rivoluzione a, insomma, quasi 50 anni dal 68. Angela D'Agrigento, buongiorno, benvenuta. Io voglio intervenire per il cosiddetto caregiver. Sì. Guardi, io sono d'accordissimo con tutto ciò che si propone il caregiver, però mi piace anche estenderlo per una mia esperienza personale. Cioè, il caregiver, io ho fatto parte... Lo pronuncia benissimo, è vero, lo pronuncia benissimo. In inglese notevole, notevole, Angela. Ma io sono un insegnante di lingua e intenzione, ecco. Quindi insomma è un po' pane quotidiano. Perfetto. Certo. E come lo tradurrebbe in italiano il caregiver? Io ho fatto parte della cosiddetta banca del tempo, che è una cosa molto importante, specialmente nelle grandi città, perché una volta abitavo a Palermo e... Cioè la banca del tempo, spieghiamolo, Angela. Angela, alfabetizzazione a delle persone che non erano mai andate a scuola, e in cambio venivano a casa mia, per esempio, per tirare giù dei pacchi molto pesanti, per aiutarmi a potare non so qualche cosa. Quindi praticamente questa banca del tempo aveva instaurato un cosiddetto help one another, cioè aiutatevi l'uno con l'altro, che anche queste sono care, o anche insegnare una lingua straniera, insomma, perché ormai siamo praticamente tutti soli, e i figli, i nipoti sono tutti per conto loro. Angela, va bene, va benissimo, però la questione dei caregiver è un po' più complessa, perché un conto è la banca del tempo, che è uno da due ore, un conto è qualcuno che per tutta la vita, o magari 20-30 anni, deve occuparsi di un familiare. La banca del tempo è un'iniziativa bellissima, ne abbiamo parlato altre volte, è uno scambio gratuito, si conoscono delle persone, ci si dà una mano, è fantastico. Fantastico. Insomma, è un'integrazione ai bisogni che si hanno, alla propria vita, anche alla vita sociale. Però qua parliamo di persone che hanno un familiare a carico, magari 24 ore su 24. Ma chiediamo la traduzione, che sei ancora con noi? No, non c'è più. Perfetto. Gianfranco da Roma. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, senta. Io mi trovo un po' in difficoltà, è la prima volta che mi intervistano. Saluto anche gli spettatori. Non il mio problema, io ce l'ho molto con i padroni e con i padroni dei cani, sì. E la loro maleducazione. I padroni, no? I cani io li amo tutti. Ma perché ha chiamato Gianfranco per parlare dei padroni dei cani maleducati? Perché la rivoluzione che sto facendo è questa. Che non stanno alle regole. E nessuna regola rispettano. A loro stanno facendo la rivoluzione, o lei sta facendo la rivoluzione perché combatte i padroni dei cani? Con i padroni dei cani. Ma in che modo cerca di combattere i padroni dei cani? Protesto, li fermo. E ci parla? Il cane che non è tenuto al guinzaglio. Sì. Io ho dei casi che gente che ha avuto dei trauma perché i cani non sono al guinzaglio. Per esempio, nel condominio mio lo lasciano libero per le scale. Una signora è stata malissimo perché ha incontrato il suo cane e si è messa, si è non impaurita. Se l'aspettava, si è presa un cuccolone, un cuccolone. Sì. Allora che cosa succede? Il cane, il proprietario del cane dice: guardi che ha già mangiato. Questa è una parola classica, ma che pare bello. Ma che vuol dire? Gianfranco, è vero, capita che chi ha magari un cane, un animale che giustamente ogni tanto vorrebbe lasciarlo libero, però poi deve sempre tenere conto che ci sono altri che non sono magari abituati in un condominio. E magari strada, si spaventano, anche se anche però il cane è un cane buono, perché uno non lo sa, il padrone sa che è un cane buono, io che non lo so, incontro il cane e mi spavento. E quindi insomma la rivoluzione quotidiana di Gianfranco per le strade di Roma e anche nel suo condominio è quella di parlare, però mi sembra abbastanza civile con i padroni in civili, con i padroni dei cani, per cercare di fargli capire che insomma, bisogna trovare un modo di, per convivere insieme. Allora, oggi, oltre a essere l'anniversario del 68, quasi cifra tonda, 49 anni abbiamo detto, per cui vi chiediamo le vostre evoluzioni grandi. Dello sciopero a Parigi, giusto? Esatto, quello, la prima manifestazione dello sciopero a Parigi. Oggi è anche la giornata mondiale del commercio equo e solidale. Altro Mercato organizza una colazione equo solidale più grande d'Italia, dovunque, in tutte le città, in tutti i punti d'acquisto del commercio equo e solidale. Con noi Davide Cavazza, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Di Altro Mercato. Scelto, non l'avete scelta a caso questa data, giustamente è la data della rivoluzione. Esatto, ed è una rivoluzione sia grande che piccola, come stavate dicendo voi prima, perché con il commercio equo e solidale in realtà si può fare rivoluzione ogni giorno. Il nostro tipo di rivoluzione è quella di promuovere dei consumi responsabili e di diffondere dei prodotti di grande qualità e che facciano bene alle persone, anche perché rispettano i loro diritti per come sono prodotti. Ecco, come oggi avete proposto questa colazione equo e solidale in giro per l'Italia, se c'è qualche appuntamento che vogliamo dare, ma soprattutto com'è una colazione equo e solidale? Un caffè di che tipo? Brioche sono contemplate? Sì, sono contemplate. Contempliamo veramente tantissimi prodotti, caffè, marmellate, biscotti, tè, zucchero. Perché noi produciamo in una maniera etica e responsabile e oggi abbiamo tante possibilità per venire a trovarci. Questo è l'invito che facciamo nelle botteghe di Altro Mercato, che sono 260 su tutto il territorio italiano, e poi anche in altri luoghi scelti che si possono guardare facilmente su altromercato.it. siamo a Torino, a Roma, a Genova, a Verona, a Cagliari, a Matera, a Pordenone, a Mantova. L'elenco è veramente ci sono veramente 260 lunghissimo. Botteghe del commercio equo e solidale in tutta Italia, ed è una cosa che... Quando è nata la prima bottega in Italia? È nata 30 anni fa. 30 anni fa. Noi compiamo 30 anni. Quindi in 30 anni un po' di strada l'avete fatta. Ma quello che ci si domanda a tutti è: costa di più una colazione equa e solidale? Cioè, nel senso, io che sono un semplice consumatore di colazione al bar che cerca di cavarsela con 2 euro per fare caffè brioche, ce la posso fare? Sì, ce la puoi fare, perché i nostri prodotti non costano di più, i nostri prodotti hanno una qualità maggiore, però noi riversiamo una percentuale maggiore di introito verso i produttori, e quindi il prodotto non costa di più, ma semplicemente equilibra quello che è invece uno squilibrio di mercato che normalmente c'è sui prodotti che hanno una componente più commerciale. Noi vogliamo fare in modo che tutta la filiera del percorso di produzione, che noi appunto definiamo filiera etica, consenta e rispetti tutti quanti gli attori che poi ti consentono di bere quel caffè. Beh, a volte però è anche giustamente alcune cose costano di più, perché giustamente altri che producono senza pagare in modo corretto i lavoratori possono permettersi di fare dei prezzi più stracciati, o sbaglio? No, non sbagli, ed è per questo che noi puntiamo su prodotti di qualità. I nostri prodotti stanno su una gamma di alta qualità, proprio perché vogliamo assicurare sia una componente nutrizionale ottima che ovviamente una giusta retribuzione a tutti, e quindi in questo modo, avendo prodotti di alta gamma a prezzi concorrenziali, noi riusciamo, cerchiamo ogni giorno, insomma è difficile, è il nostro lavoro quotidiano di soddisfare. Ecco, ma come si valuta se un caffè è equo oppure no? Il caffè di una multinazionale, per esempio, no? Quello che molti di noi comprano senza neanche pensarci tanto, magari dopo questa intervista qualcuno ci penserà di più, due volte, è necessariamente per definizione non equo? Un caffè di una multinazionale, di una grande azienda, senza fare nomi, insomma, Nespresso per esempio. Tendenzialmente sì, non è molto equo in realtà, perché le condizioni dei lavoratori, perché le condizioni retributive, perché lo sfruttamento della terra, perché le condizioni ambientali, tutte queste cose godono di un trattamento di minor favore di quello assolutamente speciale che il commercio equo invece riserva a tutte queste componenti. Quindi io posso solo parlare bene dei prodotti del commercio equo e solidale, diciamo, perché li conosco e perché ci lavoro ogni giorno, e perché vedo anche sul terreno. Noi lavoriamo con 155 organizzazioni di produttori, sì, in tutto il mondo. Siamo in 45 paesi del sud e del nord del mondo e lavoriamo anche con piccole cooperative, con piccole realtà che altrimenti non riuscirebbero ad avere un accesso sul mercato. Ecco, però c'è anche un discorso di chi valuta se il prodotto è equo, perché c'è un ente indipendente, se non sbaglio, no? Che fa questa valutazione, perché se no altrimenti uno dice: ma se siete voi a dire che è equo, allora anch'io comincio a dire che il mio caffè è equo e lì è finita. Certo, no, c'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio Equo, la World Fair Trade Organization, a cui Altromercato è iscritta e della quale peraltro esprimiamo anche in questo momento il presidente mondiale, che è Rudy Dalvai, e che è uno dei fondatori di Altromercato. E una curiosità che ho letto è che siete in grado di stabilire qual è il prezzo equo per ogni materia prima, cioè se io dico il caffè oggi dovrebbe essere pagato tot, e voi avete un prezzo che magari è diverso da quello di mercato. Sì, è così, perché noi continuamente bilanciamo quelli che sono questi parametri con un occhio appunto ai diritti delle persone e a fare in modo che ciascuno venga correttamente retribuito. Allora, buona colazione equa e solidale a tutti oggi nella giornata mondiale del commercio equo e solidale. Grazie Davide per essere stato con noi. 800 24 0024, ci risentiamo tra poco dopo il GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nove, otto minuti. Buongiorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Siamo qua. Carlo, Milano Monterosa, abbiamo già detto. Sono le nove, non sono le otto. Sì, però sta migliorando. Esce proprio il sole. Hai ragione. No, dobbiamo dirlo, perché prima è una cosa pazzesca. C'era una nuvola di passaggio alle 8:19, per essere precisi, perché io sono meteorologo, ovviamente. E invece adesso c'è un sole splendido e splendente. Io dai, ho paura, finiamola. Stavo ho dicendo, paura. Dai, finiamo la trasmissione che andiamo a, nevica, a giocare. Al parco. Allora vi aspettiamo all'800 24 00 24 per stare con noi, per commentare intanto la proposta di legge dell'onorevole Bignami sui caregiver, che questa settimana i familiari assistenti che hanno un familiare a carico hanno fatto una manifestazione. C'è una proposta di legge che aspetta soltanto che il Parlamento e il Governo la prendano per mano e diano una mano a questi, quanti sono? 3 milioni, che è un numero incredibile, è una cosa veramente incredibile. Non se ne persone occupa nessuno, persone che si assistono un familiare disabile, malato. Anzi, adesso, addirittura, in realtà, quella del 5 Stelle, in realtà, ci ha allora spiegato Bignami, che sì, anche se non devono essere per forza familiari, forse è per questo che stiamo parlando di 3 milioni di persone, perché sennò mi sembrava un numero pazzesco. Possono essere anche vicini, amici e così via. Adesso, però, è il momento della classifica delle 5 migliori notizie della settimana. Vai. Allora, quinto posto a Pescara, ombrelloni in vista della stagione del mare e sdraio gratis per i bagnanti dell'entroterra che viaggiano con treni ed autobus. È bello pensare che le organizzazioni degli esercenti di Pescara abbiano appunto pensato di dare una mano a chi, rinunciando ai piccoli vantaggi del trasporto individuale, scelga i mezzi collettivi. Senti che bella parola, mezzi collettivi. Bello. Quarto posto, arriva il braccialetto che segnala gli autovelox, si chiama Wolf. Non siamo sicurissimi che sia un'ottima notizia, perché sembra un po' una truffetta. Esatto, però, segnalare, il sogno di tutti, gli segnalare l'autovelox è un po' quello. È interessante perché il braccialetto in realtà dà una piccola vibrazione, quindi non distrae, non è come tutti gli automobilisti che stanno, io dico tutti gli automobilisti ma non avendo la patente, che stanno semplicemente a guardare il telefonino perché gli indica dove sono gli autovelox. Ecco, perlomeno questo permette di non staccare gli occhi dalla strada, perché è un braccialetto che vibra. È un brevetto italiano, quindi ne siamo contenti. In realtà è una buona notizia perché segnala anche imminenti pericoli o curve pericolose. Terzo posto, siamo sul podio a Firenze per la prima volta, e questa notizia ha fatto il giro della tutta la settimana in realtà. Eletta una rappresentanza sindacale in una azienda cinese, la Borse Borse di Campi Bisenzio, 160 dipendenti, quasi tutti di origine cinese. Per la prima volta, ha sottolineato il sindacato, che in Italia un'azienda cinese accoglie organizzazioni sindacali al suo interno. Meglio tardi che mai. Assolutamente. Secondo posto, quindi sempre sul podio, case cantoniere, stazioni, masserie abbandonate. Ci sono un centinaio di immobili che stanno per essere dati gratis agli under 40 lungo le vie del cicloturismo. Il demanio ci aveva già ben fatto sperare con il recupero dei fari, e adesso invece vuole recuperare appunto case cantoniere, locande, negozi che sono lungo le vie del cicloturismo, e entro l'estate ci sarà il bando, quindi occhi aperti. Evviva il bando. Primo posto, siamo felici perché in Italia cresce il consumo di frutta e verdura, e va bene il biologico, c'è una crescita l'anno scorso sull'anno precedente, noi siamo sempre felici. Viva la dieta mediterranea. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. Questa che abbiamo appena ascoltato è Don't Stop Me Now dei Queen, che è il nostro Si può fare in musica. È una canzone che ci è stata suggerita da Mattia via mail, con una bellissima motivazione, perché questa è la prima canzone che ho sentito quando sono salito in macchina dopo aver finalmente trovato un lavoro decente. Ci è sembrato giusto farvela sentire per questa buona notizia. Come ben sapete, noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei compositori, dei musicisti, dei cantanti o anche semplicemente degli ascoltatori, vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di modo che noi la faremo sentire e la metteremo sui nostri social. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it, oppure sui nostri profili Facebook Si può fare trattino Radio 24, su Twitter che è @sipuofare24, oppure potete anche segnalarli ai nostri account personali. Il mio di Twitter è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi, anche se non lo uso quasi mai. Matteo da Padova, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego. Intanto complimenti per la trasmissione, che è simpaticissima e molto interessante. Grazie Matteo. Grazie mille. Vai, cosa volevi dirci? Niente, io ho rivoluzionato, siccome è un po' il tema di cui che trattate oggi, sostanzialmente mi tocca un po' da vicino, in quanto ho rivoluzionato completamente la mia vita, e anche a 40 anni ho deciso che un po' la rotta che stava prendendo la mia vita professionale non mi andava più bene, era incanalata molto bene perché avevo un lavoro, diciamo, come manager a Milano. Cioè era incanalata bene, ma non ti andava più bene. No, non mi andava bene perché non ho mai fatto una questione economica, ma ne ho sempre fatto una questione di realizzazione personale. E da manager sei passato a fare che cosa? Sono diventato un libero professionista, ho ricominciato da zero, quindi ho rinunciato a tutto quello, tra virgolette, in termini materiali che avevo realizzato in 13 anni, e non in termini di esperienza, perché l'esperienza te la porti dentro e quella ti rimane sempre. E da lì sono ripartito, cominciando da zero, quindi senza uno stipendio. E com'è andata? Come sta andando? Benissimo, perché La logica che volevo era quella che diciamo anche la retribuzione dipendesse semplicemente e i risultati dipendessero semplicemente dalle mie capacità. Libero professionista, che, diciamo, che in che campo ce lo vuoi dire? Così magari, visto che a te è andata bene, può andare bene anche a me. Quindi sono consulente finanziario, così? Si può dire così? Sì. Grazie Matteo, grazie. Complimenti. Beh, insomma, la rivoluzione più grande che ci sia è quella di prendere in mano la propria vita e cominciare a viverla, cambiarla e migliorarla, certo. Allora, diamo il buongiorno a Francesco Bonami, benvenuto. Buongiorno. Allora, Francesco Bonami, critico d'arte, autore di numerosi libri, curatore di mostre. L'ultimo libro, Bonami, noi l'abbiamo preso proprio, ci è arrivato così addosso, perché finalmente, finalmente un critico d'arte, un esperto d'arte, uno storico dell'arte, che ha il coraggio di dire una verità scomoda, no? Che normalmente nessuno dice mai. Quando guardiamo molte opere d'arte contemporanea, che diciamo di tutto, questa è una cosa molto, l'avrei potuto fare io. Lei aveva scritto anche un libro che era proprio che era... Adesso ha scelto un titolo un po' così evocativo, allusivo, no? Che lascia intendere che qual è l'arte nel cesto. L'arte nel cesto è tutto finito, sì. L'arte contemporanea è finito in ciclo, ha cominciato 100 anni fa e come naturalmente tutti i cicli delle cose si conclude, ci sono stati momenti belli, momenti oscuri, e però ora sì. Però in questo caso si inizia dal cesso e si finisce nel cesso, quindi è interessante anche questo, cioè se ci spiega i due cessi. Questo centenario, stavo dicendo questo centenario di cagate, ma non credo che sia una buona sintesi. No, perché certo, il primo cesso era una fissata, era un urinatoio. Giustissimo, Duchamp. Appunto, Duchamp. L'ultimo cesso invece è quello d'oro massiccio di Maurizio Cattelan, dove in effetti si può fare anche il bisogno più grande, e che è stato installato al Museo Guggenheim, c'è poco di meno che al Museo Guggenheim di New York, ancora oggi è lì, e chi vuole può stare in fila e fare l'esperienza diretta di usarlo quest'opera d'arte. Quindi secondo ci me abbiamo messo 100 anni per far sì che un'opera d'arte come un cesso poi si possa anche finalmente di nuovo usare, perché quello di Duchamp non si poteva usare, era pure rovesciato, giusto? Esatto, era, cioè, Duchamp lo aveva trasformato in un'opera d'arte, aveva rovesciato il cesso, lo aveva firmato addirittura, lo aveva messo su un piedistallo in mostra e sembrava una scultura astratta, mentre invece Cattelan lo fa diventare solo forse quello che è diventato l'arte contemporanea, un oggetto di assoluto lusso. In questi 100 anni, lei dice, Bonami, che cosa è cambiato? Perché lo potevo fare io, ma l'artista è stato il primo a farlo, quindi è arte, che è stato un po' il concetto dell'arte contemporanea. Adesso lei dice, questa cosa qua non vale più, basta, siamo giunti a si è esaurito un ciclo. No? Siamo a un punto di svolta. Questa cosa non è, torna a essere vero, lo potevo fare io. Qualche modo. No, non proprio lo potevo fare io, quello che noi pensiamo che lo avremmo potuto fare noi, forse invece da opera d'arte ritorna a non essere più opera d'arte, non si può più realizzare solo una semplice idea, una semplice provocazione e trasformarla in opera d'arte. Da Duchamp in poi le idee, le provocazioni si sono inseguite l'una dietro l'altra e ora si sono intorcigliate su loro stesse e adesso sono tornate ad essere cose normali. Il cesso ritorna ad essere un cesso, appunto, come si vede nel caso di Duchamp, certo. E quindi lo possiamo fare noi, ma non sono opere d'arte. Me viene in mente un po' quasi con una droga, no? Cioè l'arte contemporanea, come acclamare queste grandi opere che nessuno capisce, che nessuno appenderebbe alle pareti di casa proprio, però acclamate come grande, è un po' come un paragone con una droga. È difficile smettere, a un certo punto uno dice no, ma guardate, questa non è più arte, no? È stato difficile dal suo punto di vista prendere questa posizione un po' spiazzante, seppure diciamo maturata anche negli anni, condivisa anche con altri, insomma. Beh, sì, un po' difficile, sì, perché io ci ho costruito la carriera, in fondo, sull'arte contemporanea, e quindi, insomma, un po' di rischio me lo devo prendere di guardarmi allo specchio e dire forse è un momento in cui bisogna rivedere un po' certe cose, ma non vuol dire che non si finisca l'arte e nell'arte dei nostri giorni, si deve cominciare a ripensare cosa un'opera d'arte è. Che siamo in una nuova fase, perché in realtà lei dice una cosa molto interessante, a parte che io sono sicuramente ignorante, ma amo invece l'arte contemporanea e anche l'arte concettuale, quando appunto è semplicemente, non so, per dire la merda d'artista di Manzoni. Però la cosa molto interessante che sta dicendo invece lei è che siamo in una nuova fase, e lei dice, ecco, il destino dell'arte farci adesso, in futuro sarà farci entrare in una storia, farci iniziare un viaggio senza doversi mai spostare. Che cosa intende? Ah, intendo che bisogna che davanti si entra in un museo e noi si guarderanno gli oggetti creati dagli artisti di oggi, domani, e questi oggetti, che poi è sempre stata la funzione dell'arte, ci faranno immaginare un altro mondo, un'altra cosa, ci faranno entrare dentro un'altra idea, ma cioè, ci dovranno far fare un viaggio, ci dovranno raccontare qualcosa. Ma nel senso che dovranno essere anche più comprensibili, perché mi sembra cioè più accessibili anche, per esempio, a chi non ha studiato profondamente tutta la storia dell'arte? Ma sì, guardi, per esempio c'è un grande artista, scultore, che si chiama Richard Serra, che fa delle grandi sculture. Alcune sono come l'arte contemporanea, perché sono delle pareti di ferro che sono ferro normale messi in mezzo a una stanza e ci si domanda che cosa vogliono dire. In altri casi invece crea con questo ferro pesantissimo degli spazi, delle spirali dove uno entra dentro e non c'è nulla da capire, è proprio un'esperienza come stare dentro una chiesa, dentro uno spazio naturale, quindi uno ha un'emozione senza dover capire, fa un'esperienza senza doversi chiedere cosa vuol dire. Credo che questa sia un po' la funzione dell'arte, farci fare un'esperienza senza doversi immediatamente dire cosa vuol dire, un po' come al cinema, come al teatro, certo. No, anche un po' come la musica, che a volte sento delle canzoni in inglese, non si capisce le parole, però perché, ci fanno sognare ugualmente. Bonami, no? Quando dice cercare di capire, mi viene in mente che questo cercare di capire è stato descritto anche in maniera strepitosa. Vado un po' indietro nella memoria, il celebre film di Alberto Sordi con la moglie seduta sulla sedia alla Biennale di Venezia, che veniva ammirata come un'opera d'arte perché tutti cercavano di capire esattamente che tipo di installazione fosse. Però anche più recentemente è successo, da un paio di occhiali io me li sono segnati, lasciati in un museo a San Francisco, anche un ananas in Scozia, in un altro museo, la gente ha cominciato a fotografarli pensando che fossero un'installazione. Addirittura in Scozia non hanno voluto togliere l'ananas perché ormai era diventato parte del museo. Cioè, del museo. Sì, e infatti è quello, dico, che i musei e noi curatori abbiamo una bella responsabilità, cioè, perché il pubblico in fondo che entra in un museo si aspetta che ci sia di trovare delle cose, e quindi dà fiducia a chi mette le cose nei musei, quindi non bisogna approfittarsi né dell'ignoranza del pubblico e dire tanto non capiscono, gli facciamo vedere quello che vogliamo, no, dobbiamo essere un pochino più seri nel modo in cui approcciamo della gente che già fa lo sforzo è encomiabile di andare in un museo, e quindi anziché di andare a mangiare un hamburger soltanto, vai in un museo, vuole capire qualcosa, vuole scoprire qualcosa di diverso. E allora questo è il nostro compito, sia dell'artista che dei musei e dei curatori, offrirgli qualcosa di diverso che però aggiunga qualcosa alla loro vita, non soltanto qualcosa di diverso che li lascia straniti e li fa tornare a casa, insomma, un po' scocciati, anche se hanno pagato particolarmente un biglietto. Senta, ne approfitto, ma il dito di Cattelan davanti alla borsa a Piazza Affari a Milano significa fuck the borsa o non c'entra nulla? Beh, sì, in effetti Cattelan fa queste provocazioni. Come al solito lui è un grande equilibrista, da una parte fuck the borsa, oppure uno più cinico potrebbe pensare che è la borsa che dice fuck the people, la gente che ha investito in noi, ha perso i soldi, ma noi abbiamo continuato a fare i soldi, quindi dipende da quale lato la guardi, sì, certo, questo è possibile. No, però il dito è rivolto verso la borsa, se non ricordo male. Vabbè, però insomma, quello dipende come uno mette la mano, si può mettere E poi in realtà le dita sono mozzate del dito di Cattelan, cioè un saluto fascista con le dita mozzate, giusto? Sì, è rotto. Cattelan prende in prestito sempre delle immagini che ha visto da qualche parte. C'è anche un grande dito a Roma, romano, nel Museo Capitolini, molto simile a quello lì. Certo. E Catena, siccome ha fatto molti soldi, quindi è un po' dalla parte con i soldi della, quelli che hanno fatto soldi in borsa, non vuole dare una spiegazione. È lì che sta un po' anche l'ambiguità dell'opera. Senta, Bonami, oltre a suggerire L'arte nel cesso, il libro di Bonami, che ci aiuta a sentirci un po' meno stupidi di fronte forse anche alla prossima Biennale di Venezia, quando saranno nuovamente esposte opere d'arte incomprensibili, forse un po' inutili, costosissime ma acclamatissime, a parte questo volevamo anche approfittarne per chiederle un commento su un paio di notizie di attualità. Una riguarda Roma e la possibilità di fare diciamo un ingresso a numero chiuso a Fontana di Trevi, un monumento classico di Roma. È giusto come intento quello di voler conservare il monumento, questa possibilità che, su cui sta discutendo la Giunta Raggi, o no? Lo condivide? Ma insomma è difficile dire chi è che decide. Certo, quando il numero delle persone supera la soglia di livello di guardia, è un po' forse qualcosa uno deve tentare di fare per consentire un'esperienza piacevole, perché entrare davanti a un'opera d'arte con una folla da stadio, in fondo poi cosa lascia lo spettatore? Uno deve fare sbirciare dietro tantissime persone e non riuscire neanche a vedere la cosa, quindi forse trovare un metodo, se non far pagare, ma magari far entrare in tanti musei un certo numero di persone alla volta, in modo che chi entra se la può godere. Un'altra polemica su cui si sono espressi anche molti suoi colleghi è quella delle luci a LED in tante città, Roma in particolare. Dal tweet di Gassman alle prese di posizione di Sgarbi, che dicono: ma queste luci rovinano l'atmosfera a Roma, sono luci che non vanno bene, però sono luci che fanno risparmiare molti soldi all'amministrazione. Lei da che parte sta? A me sembra che abbiano sbagliato proprio a comprare le lampadine. Hanno comprato le lampadine bianche, sembra di stare in ospedale. Basta, io a casa mia le ho messe, no? Se metti quelle gialle, sì, certo, è tutta un'altra cosa. Forse è semplicemente che hanno sbagliato. Sì, credo che sia una questione di... Io non sono un tecnico della luce, credo che si possono trovare dei sistemi di temperatura che fanno risparmiare con delle luci calde, che tu dici via dal grosso. Poi quello credo sia veramente una questione di saper fare. Il problema è, a volte si fanno le cose così, si vuole risparmiare senza capire che il risparmio a volte rovina delle cose. Si potrebbero studiare le cose più... Si vuole anche risparmiare tempo, ecco, a volte, non soltanto soldi, quindi si mette quello che si trova e va bene. Invece se invece di risparmiare solo soldi si investisse anche un po' di tempo in studiare delle luci che funzionino anche per quello che devono fare, forse uno potrebbe farcela. Quindi insomma, capisco che in certi casi siano appunto l'ospedale, quindi... Si può trovare una sintesi. Senta, Bonami, potremmo chiudere in bellezza con un altro grande classico, un grande classico dei luoghi comuni. La cucina è arte? Perché lei ha fatto una recente serie di trasmissioni su Sky, tra l'altro, su questo, in cui cercavate di tradurre alcune opere d'arte, i cuochi cercavano di tradurre le opere d'arte che lei spiegava, in piatti di cucina. Alla fine erano meglio i piatti o i quadri? No, erano meglio i quadri, e certi piatti anche non sapevano neanche di tanto, quindi... cioè, lei ti fa per i quadri. Secondo me la cucina è arte quando si fa come l'arte, quando si fa godere, quando ti fa alzare dicendo buono, non ti fa dire interessante. Cioè, condivido molto. La cucina interessante o divertente a me non piace, mi piace la cucina giusto, preferisco la salsiccia, è giusto, è il gusto quello che conta nella cucina, forse, giusto, e non tanto giusto. L'estetica. Quindi, cari amici chef all'ascolto, insomma, datevi una regolata, no, vedete voi. Vabbè. Sì, insomma, l'importanza dell'impiattamento, che ormai sembra che sia l'unico valore condiviso da tutti gli italiani, forse è un po' esagerato, questa attenzione sull'impiattamento. Il piatto, quando è bello, diventa anche buono. Vabbè. Ecco, no, non credo. Io, infatti, giudico un piatto anche dai centimetri del bordo. Quando il bordo è molto molto grande, sono molto sospettoso. Esatto. bravo Bonami. Va bene, grazie. Io grazie mille, ringrazio e ricordo L'arte nel cesso, il nuovo libro di Francesco Bonami. Io correggo una mia inesattezza: in realtà il dito di Cattelan è, diciamo, come se fosse la borsa che manda a quel paese tutti gli altri.

campioni bestiali, questo con The Best di Tina Turner, fa sempre un po' ridere, eh? Chi sono i campioni? Hai annunciato tu i campioni bestiali di oggi, sì. Sono i giocatori del Subbuteo riuniti, i migliori nel campionato italiano che si svolge a Desenzano. E allora abbiamo sul lago di Garda convocato Maurizio Cuzzo Crea, che è il presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, come va? Esatto, siamo già nel vivo. Siamo quasi al calcio d'inizio. Al calcio d'inizio? Stiamo iniziando il campionato italiano, è la 43esima edizione. Esatto. Sì. Quanti giocatori, quante partite pensate di fare? Questo è il campionato individuale, perché poi c'è anche un altro campionato a squadre. Che si è giocato nel mese di aprile. Sì. Abbiamo 160 giocatori di tutte le categorie. Dai più piccoli, gli under 12, fino a quelli che hanno una sessantina d'anni e che ancora resistono a giocare. Che sono quelli che hanno giocato con il Subbuteo originale, anzi no, nemmeno, perché il Subbuteo nasce nel 40, è giusto? Il Subbuteo nasce negli anni 40 in Inghilterra. Peter Adolph è stato l'inventore di questo gioco, era un ornitologo, lo ha chiamato Subbuteo proprio perché... il nome Subbuteo rappresenta quello di un tipo di falco, il falco lodolaio. Vedi, questo non lo sapevo. E quindi lui, che era ornitologo, pensava a questa immagine della miniatura che piombava sulla palla. Avrebbe voluto chiamarlo Hobby, che è il nome inglese con cui viene chiamato questo falco, ma gli vietarono il brevetto del nome Hobby perché era un nome generico, e allora lo chiama Subbuteo col nome latino dell'animale che lui aveva rappresentato. Beh, in effetti Hobby sarebbe stato difficile, nel senso che registrare un nome come Hobby, cioè che cosa fai come Hobby, e poi è finita. E all'inizio erano bidimensionali, sì. Bidimensionali, lo dico per gli appassionati di Subbuteo. Appassionati di Subbuteo che in Italia sono tantissimi, forse più che in Inghilterra, che ne è stata la patria. Ecco, però il Subbuteo ha avuto un momento di splendore Possiamo ricordare anche noi, quindi negli anni 80. Negli anni 80, sì, per esempio 70, uno dei grandi testimonial, Enrico Letta, che ricorda sempre che giocava a Subbuteo, quindi un 45enne che quando era ragazzino, cioè il film di Nanni Moretti, quando non ricordo il quale film fosse, giocavano a Subbuteo, una scena classica, però resiste il Subbuteo? Cioè i bambini di oggi giocano a Subbuteo? Sì, giocano. Noi abbiamo un settore giovanile molto, molto attivo. Il settore giovanile del Subbuteo è notevole, devo dire. Noi che adesso abbiamo tra 45 e 55 anni, che siamo quelli che portiamo avanti le attività della Federazione Italiana, ovviamente abbiamo fatto scoprire il gioco ai nostri figli. I nostri figli lo hanno fatto scoprire ai loro compagni di scuola. Sì, ma quindi... chi è il... questi sono i campionati italiani, naturalmente, quindi sfida tra gli italiani. Ma il Brasile del Subbuteo, cioè c'è un paese nel quale sono fortissimi? Lo devo dire, il Brasile del Subbuteo è l'Italia. Siamo noi. Negli ultimi mondiali che sono disputati nel 2016 in Belgio, su 12 titoli delle varie categorie individuali e squadre, l'Italia ne ha 28. Però noi siamo... Ma non è che siamo gli unici che ci giochiamo nel mondo, no? No, abbiamo disputato i mondiali 2015 in Italia, a San Benedetto del Tronto, dove abbiamo una delle nostre sedi federali, e sono arrivati i giocatori anche dal Brasile, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Giappone. Ma quindi si disputa tutti gli anni il campionato mondiale di Subbuteo? Il campionato mondiale si disputa tutti gli anni. Quest'anno si giocherà a Parigi. Noi infatti oggi selezioniamo i campioni italiani che rappresenteranno l'Italia nelle categorie individuali. Chi vince i campionati italiani poi va a fare i mondiali. Insieme ad altri giocatori selezionati dal commissario tecnico, che è Paolo Finardi di Torino, uno dei grandi giocatori del nostro sport. Ma che scegli i migliori o scegli anche a seconda di chi sono, conoscendo anche gli altri giocatori, dici magari questo è molto bravo contro quel brasiliano là o quell'equadoregno lì o quello svedese lassù? Sì, questo si fa una valutazione anche di questo tipo, perché c'è chi ha un'impostazione tattica più difensiva, chi più offensiva, quindi si cerca nel torneo a squadre di schierare una squadra che sia abbastanza equilibrate, che consenta di affrontare le altre nazioni, e ci sono nazioni di grande tradizione nel Subbuteo, cioè l'Inghilterra, c'è la Spagna, c'è Malta che ha una grande tradizione subuteistica, proprio perché che si prende la rivincita, giustamente, che come giocatori in Malta ovviamente ha delle difficoltà, essendo molto piccola. Sul subbuteo. Sulle regole del subbuteo ci sono delle leggende metropolitane pazzesche, ognuno giocava un po' come gli pareva. Sì, allora, eravamo più giovani, al presidente della federazione chiedo di chiarire un po', due o tre, quanto dura la partita intanto? Tanto una partita nei tornei, diciamo, ufficiali dura due tempi da 15 minuti. Due tempi da 15 minuti. Come finisce normalmente una partita? Cioè, si fanno tante reti, 8 a 9 o 0 a 0? C'è di tutto. Come nel calcio vero. E poi il gioco vero del subbuteo si gioca tocco e posizionamento, tocco di palla e posizionamento, cioè è dinamico. Sì, a ogni tocco della palla del giocatore che in quel momento è in possesso di palla corrisponde una mossa difensiva dell'altro. E poi il fuorigioco, non deve colpire nulla per non commettere un'infrazione. E c'è anche il fuorigioco, ci sono i rigori, ci sono i tempi supplementari nel caso in cui una partita finisca in pareggio. Cioè, tutto, di è un gioco stupendo, possiamo dirlo, è un gioco veramente stupendo. Sono di parte, ma devo dirlo. E poi c'è anche tutta la questione del materiale, perché andando avanti il subbuteo, se non ricordo male, sono iniziati un po' a diventare più scadenti i materiali del subbuteo, quindi ci sono persone che recuperano i vecchi subutei, è giusto? Sì, è vero, ci sono tanti piccoli produttori, artigianali che producono adesso delle basi che siano migliori dal punto di vista della ricerca. Ci sono alcuni che fanno un lavoro veramente di grandissima qualità, perché riescono a riprodurre delle basi con dei torni a controllo numerico, quindi basi perfette, molto belle. Diciamo che il gioco, noi manteniamo entrambe le dimensioni del gioco, manteniamo sia il gioco con le miniature, diciamo, che abbiamo visto nella nostra infanzia, quelle più antiche, sia manteniamo poi il gioco nella dimensione più performante, quella tramite la quale noi puntiamo un riconoscimento del calcio da tavolo come disciplina sportiva nel CONI, con il quale siamo olimpica addirittura. Senta, presidente, olimpica la vedo difficile, è un po' dura. Ma ce l'ha l'identikit del campione italiano quest'anno? Chi è? È difficile. Abbiamo una nuova generazione di ragazzi che sono cresciuti tantissimo, e quindi se devo fare qualche nome dei candidati finali al titolo è difficile. Ma un giovane può battere un anziano? Attualmente il numero uno del ranking italiano è un ragazzo di Napoli che si chiama Matteo Ciccarelli, che gioca nel club dei Napoli Fighters e ha 18 anni. Ah, va bene. Il campione d'Italia in carica è Saverio Bari di Reggio Emilia, uno dei campioni storici, che invece di anni ne ha 47, quindi... Ce n'è per tutti i gusti. È un gioco con una grande longevità. Divertitevi, beati voi che fate. Longevo di sicuro, è un gioco che ha ormai quasi 100 anni, insomma, nel 40. Ah, ma aspetta un attimo, presidente, ma l'arbitro, c'è anche l'arbitro, no? C'è l'arbitro, sì. In casacchina nera, no, non c'è bisogno. No, non è necessario. I giocatori a turno fanno anche gli arbitri, in modo da poter garantire una... Ma non c'è la pedina, però, non c'è la pedina dell'arbitro. La pedina dell'arbitro ce l'abbiamo. Dovremmo approfondire, grazie. Grazie mille. Noi ci sentiamo domani con Si può fare. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Loricella, regia. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Buon sabato, buon sole. E a chi ci ascolta in podcast.